Friuli nel mondo. Selezione da Barbe Basili e il Paradis. Favola lirica in tre atti di Lea Dorlandi. Musica di Ezio Vittorio. Nella interpretazione del complesso artistico dello Stadttheater di Klagenfurt. Il Friuli non esporta soltanto bravi lavoratori. Il cividalese Jacopo Tomadini, riformatore della musica sacra nell'Ottocento, è noto oltre Atlantico per i suoi oratori, mentre le villotte friulane, patrimonio di popolo, conoscono da tempo le vie dell'etere. Ora è la volta di un'opera lirica in tre atti, Barbe Basili e il Paradis, libretto di Lea Dorlandi, musica di Ezio Vittorio. Una favola di quelle che si narrano nel decore del popolare. Narrarla in friulano sarebbe facile, ma bisogna ascoltarla, come il pubblico di Klagenfurt, capoluogo della Carinzia, in lingua tedesca, nella diligente traduzione di Otto Maria Polley. A Klagenfurt, in quel magnifico Stadttheater, Onkel Basilis Himmelfahrt ha avuto successo di pubblico e di critica, merito di un complesso di esecutori degni di ogni lode. Sei le repliche. Alla prima le maggiori autorità del Friuli, con il presidente della provincia accanto alle maggiori autorità austriache. Due ministri del governo di Vienna, il presidente della regione. Attivo sul piano della cultura lo scambio fra i due paesi, che sarà ancor più intensificato nell'avvenire. L'Europa nuova nasce dalla reciproca conoscenza, dai contatti frequenti tra popoli che si comprendono e che si stimano a vicenda. Barbe Basili, un buon prete di campagna, Onkel Basili ha suggellato l'amicizia tra friulani e carinziani, un'amicizia che risale ai secoli più remoti. Semplice la vicenda, seppure fantasiosa come si addice ai racconti popolari. Attinge essa alle poetiche tradizioni del Friuli, sin dal primo atto, in cui la notte di San Giovanni, densa di presagi d'amore, costituisce la cornice alla passione di Zuan, un giovane barbiere squattrinato, per Anne Marie, nipote del prete avaro e in fama di danaroso. A calapiare il cuore della ragazza e il pignattino di marenghi di lui è lo scopo dell'intraprendente Figaro, che per riuscire nell'intento non esita a far lega con un Belzebù burlesco, mentre col vecchio sacerdote se la intende niente meno che San Pietro, il quale da un finestrino del paradiso non manca di ammonirlo che l'avarizia è un gran brutto peccato. Il primo atto, dopo l'ouverture che avete ascoltato, prepara così la grande scena del secondo, la sagra del paese con frastuono di suonatori e di danzatori di staiere, di ciarlatani e chiromanti, di giostre e bevitori alle prese coi boccali del nostrano. Hieropilus, der Feuer schlug, so wie ein anderer Kopf. Vivacità e fedeltà alla tradizione musicale friulana, colore e sapore di sagra nelle pagine che ascoltate e che i bravi attori dello Stadttheater di Klagenfurt, pur essendo di temperamento nordico, hanno reso con la spigliatezza delle sagre carinziane. Nelle pause del tumulto, il sospiro dei cuori innamorati. Anche il cuoricino di Anne Marie arde ormai per il simpatico Zhuang, il quale s'accinge a tendere il laccio al vecchio Barbe Basilio.